Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È nato Pulpino. Il post fisso della parola avrà già fatto scattare, diciamo così, nei tecnodipendenti un riflesso. Parliamo di open source. E difatti Pulpino è un microprocessore open source progettato dall'Integrated System Laboratory del Politecnico di Zurigo e dal laboratorio Energy Efficient Embedded Systems dell'Alma Mater, l'Università di Bologna. Ed è lì che andiamo per incontrare Luca Benini, professore di elettronica del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione, Guglielmo Marconi. Buonasera Benini. Buonasera. Allora Benini, un microprocessore open source, questo vuol dire che voi lo avete progettato, in realtà l'avete anche realizzato e verificato che funzioni, e ora avete reso disponibili tutti i progetti e chiunque è libero di farne ciò che vuole, con l'unico, diciamo così, vincolo di citare la fonte, diremmo giornalisticamente. Ecco, che cosa permette di fare? Partiamo da qui, questo microprocessore. Per cosa è progettato, pensato? Sì, si tratta di un sistema ad alta efficienza energetica, quindi è pensato per applicazioni tipicamente Internet of Things, quindi sistemi che devono consumare pochissima potenza, alimentati a batteria, indossabili, distribuibili nell'ambiente e alimentabili addirittura tramite raccolta di energia, tramite energy harvesting, per applicazioni che vanno dal monitoraggio delle attività delle persone, dalla sicurezza degli ambienti civili, dal monitoraggio delle strutture critiche e così via. Quindi questo è proprio il cuore pulsante di qualunque apparato elettronico, da un computer piuttosto che qualche altro oggetto. Ecco, non è il primo caso in cui si fa o si progetta un hardware open source, c'è per esempio il caso di Arduino che è piuttosto noto. Qual è l'aspetto che rende innovativo il vostro progetto? Spieghiamolo bene. Sì, direi che in termini semplici si tratta di un progetto in cui noi, al contrario di quello che succede in Arduino, che è un assemblato di componenti commerciali, di chip commerciali, quello che noi abbiamo reso disponibile è il progetto per realizzare tutte le componenti di progetto che servono per realizzare un nuovo silicio, un nuovo chip. L'altra cosa particolarmente interessante e innovativa di questo approccio è che non solo noi rendiamo disponibile questo progetto, ma abbiamo anche già realizzato prototipi su silicio di questo progetto, quindi il progetto non è solo verificato in senso teorico, ma è stato provato e dimostrato sul silicio. Sul silicio, benissimo. Ecco, dicevamo che per esempio il risparmio energetico è uno degli aspetti più importanti. Lì avete messo a punto una specie di meccanismo di stand-by interno, è così? Assolutamente sì. Le caratteristiche dal punto di vista del consumo di potenza di questo progetto sono molto interessanti. La prima caratteristica è quella di essere in grado di rimanere reattivo in attesa di eventi esterni con un bassissimo consumo di potenza. Come fa il televisore, no? Quando aspetta appunto il segnale dal telecomando. La seconda caratteristica? La seconda caratteristica è di funzionare a una bassissima tensione dell'alimentazione. Benissimo. Che consente anche di avere un bassissimo consumo di corrente quando il chip sta funzionando. Sta funzionando, perfetto. Ed è questo chip non così il punto di arrivo di questo progetto, ma in realtà dovrebbe essere, insomma, il primo tassello di un ecosistema più ampio. Ci spiega che cosa vuol dire, che cosa sta per arrivare? Assolutamente sì. La prima grossa novità è che arriverà a fine maggio è l'apertura di tutti i tools per lo sviluppo, quindi compilatore, debugger, cioè tutto quello che serve per creare software. Ai programmatori per usarlo, esatto, perfetto. Per questo processore. E infine, entro la fine dell'anno, faremo un rilascio di una implementazione molto più completa che consentirà di creare sistemi multiprocessore, quindi sistemi paralleli, utilizzando questa tecnologia. Quindi se ha bisogno di tanta potenza lo si ottiene in questo modo, mettendo tanti di questi chip a lavorare in parallelo, cosa che anche questa è ormai una cosa che si fa, insomma, spesso. C'è già qualcuno che è intenzionato a produrlo questo hardware, perché poi se fisicamente non c'è tutto questo, no? Ragionamento svanisce. Sì. Anche al di là dei molti enti accademici che stanno già utilizzandolo e che intendono fare prototipi, abbiamo già contatti con due aziende che sono molto, molto ben intenzionate a produrlo, fare prodotti su questo. Non si può dire perché sono ancora in corso le trattative. Grazie Luca Benini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, vi ricordo che trovate tutte le puntate di Smart City in podcast sulla pagina dedicata alla trasmissione dal sito di Radio 24 e che se ci volete contattare e seguire potete farlo anche attraverso Facebook, mi trovate come Maurizio Melis o anche come Smart Melis, forse questo è più un augurio che altro, comunque sia a voi tutti, buona serata.